Kiev. Avanti sul binario 10. Buongiorno a voi, Luca da questa parte. Ciao Luca, Daniele da questa. Ciao Daniele, tutto a posto? Oggi è una bella giornata. Ci avevo intenzione di venire in zona tua a cercare due asparagi, ma poi sta vincendo la mandronia. Purtroppo è una bella giornata sì, io ho fatto qua per la... tutto il roger, allora, a posto. Mi viene male perché con questa rada qua lo smitter non è affidabile, non c'ho, oggi sto facendo girare questo apparato piccolino e non ti posso dare un segnale, però come radio arrivi bene, chiaro, perfetto, limpido. Va bene, tutto e siete tutti più bassi. A me il vento della settimana scorsa me l'aveva aspettata in due l'antenna. Eh sì, ne ho trovato 2 metri attaccato al palo e gli altri 4 metri e passa sull'astrico solare, meno male che non c'è scesa giù nella via. Forse perché stavo parlando col microfono lontano. Adesso va a te. Purtroppo quello che ha fatto danno, Danno. Adesso il problema è il capo. E come cercare di risolverlo. Ma perché? Cosa ti è successo? No, che ormai è vecchio, poi sicuramente non sta piovendo, è mancato acqua e l'acqua è più rovinato. Fargli un'asciugatura, un'impermeabilizzazione, mettere quel CRC marino che toglie l'umidità, fargli qualcosa, no? No, è tutta la carta interna che ormai è ossidata, è arrivata alla fine, sta dicendo che sta cambiando i soldi. Vabbè, io invece me l'ho portata in ditta, me l'ho fatta quella, perché si è spezzata tra stelo e stelo, dove si uniscono due steli, si è stata, me l'ho fatta ripristinare, me l'ho fatta anche dare un giro di saldatura, sempre in alluminio, e quel pezzo adesso è fisso. Poi si sentirà l'ossido del mastello. Va bene, faccio un bel po' bene, ho fatto risolvere, adesso vediamo, aspetta, non c'è il bel giornata, magari faccio un salto e vediamo già la controllo un po', vediamo già, non è che ha fatto, è una rada per i 14, adesso le previsioni dicono alta marea, alta pressione, pertanto dovrebbe fare giornate belle tutta la settimana. Vediamo, basta con l'acqua, basta, acqua e vento, l'acqua va anche troppo adesso. Almeno facesse un po' di birra, perché di acqua ne abbiamo le scatole piene. Thank you. però io là. Va bene, lui te lo può lasciare che è proseguo, dai. Ce l'ho qua di passaggio, anche agli altri. E continuo a fare, dai. Buon proseguo di attività e buon pranzo, dai, che piano piano si sta avvicinando anche l'ora. È mezzodì, adesso mi sa che inizio a scaldare qualcosa anch'io. Buona giornata, ci sentiamo alle prossime. Bene, ciao, saluto lì.